ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Cartellone. Di Elisabetta Fiorito. Bentornati a Cartellone, la rassegna settimanale di teatro di Radio 24. Iniziamo da Milano, dove è in scena all'Elfo Puccini fino al 22 novembre una prima nazionale che inaugura la stagione. Diplomazia, uno spettacolo diretto da Elio De Capitani e Francesco Frongia. È arrivato da Baden-Baden, con sua moglie e i suoi figli, e dice a se stesso: io, generale Dietrich von Koltitz, un certo giorno dell'agosto del 44 avrei potuto mettere fine a tutto questo, ma non l'ho fatto. Diplomazia racconta l'ultima notte dell'occupazione nazista a Parigi. Siamo nell'agosto del 1944. I nazisti hanno minato i ponti della città e diversi monumenti. Sono coordinati dal generale von Koltitz, mandato solo 2 settimane prima da Hitler per dare l'ordine finale. In una notte afosa e inquieta, come per incanto, nel cuore del quartiere generale tedesco appare il console svedese Raoul Nordling. Dopo un primo momento di stupore e preoccupazione tra i due uomini si innesca una lotta verbale in cui il dovere dell'obbedienza a un ordine orribile e insensato si contrappone al senso etico e morale. Come si sentirà in quel preciso istante, generale? Diplomazia prende spunto da un fatto realmente accaduto e i due personaggi sono realmente esistiti e la fine è conosciuta a tutti. Ed è proprio questa sfida che ci regala la sorpresa più grande, facendoci capire che in questo viaggio il percorso è il momento più interessante e non l'arrivo. Il generale ha spesso il potere di distruggere, ma molto raramente quello di costruire. I nazisti vengono spesso rappresentati come pedine che si nascondono dietro le loro divise. Eppure, l'autore ci offre dei ritratti più complessi di questi uomini. Il generale Dietrich von Koltitz cerca di trovare la motivazione per eseguire l'ordine terribile di sterminare milioni di persone rifugiandosi dietro il dovere dell'obbedienza militare agli ordini ricevuti. Si dimostra una pedina sotto ricatto, ma è sufficiente questo per compiere un delitto così grande? Parigi sarà debitrice della sua esistenza soltanto a lei. Generale, questo non vale tutta la gloria di un conquistatore. Il console svedese, invece, è quello che potremmo definire un eroe. Lotta e mette in pericolo la propria vita per salvare milioni di innocenti. E come in un combattimento di pugilato, non risparmia colpi bassi all'avversario. Finge e lo confonde fino a costringerlo alla resa. Continuiamo a Roma, dove l'Argentina inaugura la sua stagione con Un uomo senza meta, in scena fino al 25 ottobre, un testo del norvegese Arne Ligr per la regia di Giacomo Bisordi. Qui sorgerà qui la città. Sì? Qui. Una città intera. Ma non cominciare. Ho preso la mia decisione. Questo testo, Uomo senza meta, è un testo minimalista. La battuta più lunga è lunga 3 righe e racconta una storia piuttosto semplice. Un grande imprenditore, un uomo di cui si possono intuire straordinari successi imprenditoriali, ad un certo punto decide di mollare tutto per fare qualcosa che non aveva mai fatto, cioè fondare una città. Una piazza qui? Una piazza, sì. E un pontile che percorre tutto il lungomare. Il problema è che decide di fondare questa città su un fiordo incontaminato. E quanto costa? Cosa? E con la tua parte, quanto costerebbe? Da qui nasce una nuova meravigliosa città che dopo 20 anni sarà l'apice del suo successo, ma dopo 20 anni quest'uomo inizierà anche un lento, inesorabile declino. La testa reclinata di lato, un lieve movimento soltanto, come se avesse trovato un punto nuovo su cui fissare lo sguardo. Si trova accanto un fratello, una figlia che non aveva mai visto e una ex moglie. E tutte queste persone sono accomunate da un fatto. Sembrano non avere memoria, sembrano in qualche modo stonate nel modo che hanno di reagire a quelli che sono i movimenti emotivi di quest'uomo in decadenza. Le battaglie non si vincono mai, non si combattono nemmeno. L'uomo scopre sul campo solo la sua follia e disperazione. e la vittoria è un'illusione dei filosofi e degli stolti. Andiamo adesso a Verona, dove il 21 al Teatro Camploi è in scena Macbeth, un Macbeth in versione sarda, che andrà poi a Pordenone il 23 e a Livorno il 25. L'autore e il regista è Alessandro Serra. Assassino, assassino, amen. Deus non benedicata. No vas a dormire, Bruce. Ma che tuo morto sonno. L'idea nasce nel 2006 nel corso di un reportage fotografico che feci in Barbagia e fu per me una sorta di ritorno a casa. Tornai a Lula, il paese di mio padre. L'impressione fu sonora. E mi riferisco anzitutto alla lingua di mio padre, di mio nonno, che ascoltavo da bambino e che mi faceva veramente paura, perché è una lingua arcaica, animale, ma anche molto casta in qualche modo, anche molto semplice, tagliente ed estremamente musicale, ovviamente, che agisce quasi come un mantra. Duncan, arriva questo sero. Quando si calma, grasa concorda. Mai soli a tabbiere con su grasa e tue. E per sporre mano a questa avventura, ma ne questa notte. E deve essere bene risapata tanto prima. Macbeth è sicuramente un'opera visiva, nel senso che ciò che nel testo viene raccontato dai dialoghi, dai racconti, dei personaggi, nella nostra opera si vede. Quindi questo ci consente di togliere molte parole che hanno funzione narrativa e privilegiare le parole che hanno una mera funzione musicale, ipnotica. Chissà spirito de suas che angelos che sono a chi limba delizu. Anna cantare sa colpa ni che da dessa morte è sua. Se stima di sapere su corazzo che si è scopendo in su di zizzo. Ma barra sapura. Ma diciamo che i carnevali della Barbagia, come molti altri riti, vengono incarnati da soli uomini, interpretati da soli uomini, così come nel teatro greco e così come nel teatro elisabettiano, il teatro di Shakespeare, per cui la Lady in realtà era un uomo e i personaggi femminili erano interpretati da giovani attori fondamentalmente in maniera così diciamo che lo spettatore non aveva nessuna difficoltà, ecco, questo è importante, c'era una sorta di convenzione. E, per cui dobbiamo tenere presente quando mettiamo in scena le opere di Shakespeare che i personaggi femminili sono stati scritti da un autore che sapeva che gli spettatori avrebbero visto un uomo, quindi in qualche modo è come se questo uomo fosse chiamato ad interpretare la maschera della femminilità, il che può essere pericoloso se si tralascia questo aspetto fondamentale, che non stiamo parlando di una donna che interpreta una donna, ma appunto di un attore che interpreta l'involucro di una femminilità. Ma molti spettatori ci dicono che sono impressionati dalla femminilità di questa figura ed è appunto un uomo alto più di 1,90 m con la barba eccetera. Penso che tutto ciò sia dovuto alla forza dell'illusione, che è un'attività che spetta allo spettatore e senza la quale il teatro non esisterebbe. Eppure chi l'hai strazzato sul grappico del buca che le va tutte le sue carpeggio sei a ginocchio attive. Ci spostiamo a Reggio Emilia, dove al Teatro Valli va in scena stasera I Cenci, uno spettacolo tra melologo e opera, tratto dal capolavoro di Antonin Artaud per le musiche di Giorgio Battistelli. Stanotte mio padre da una festa sontuosa, Orsino, ha ricevuto buone notizie dai miei fratelli che sono a Salamanca. La storia dei Cenci, della famiglia Cenci, è una storia certamente non allegra, non è una storia d'amore, è una storia in parte letteraria, in parte accaduta realmente, un fatto storico più o meno alla fine del Cinquecento. La famiglia Cenci è stata una delle famiglie più importanti di Roma, fortemente legate anche al papato di Clemente VIII. Toccate queste ossa! E ditemi se sono fatte per accontentarsi di silenzio e di raccoglimento. È una storia agghiacciante che sembrerebbe davvero il tramonto della famiglia, una storia che quasi potremmo trovare nella cronaca nera di oggi. Un padre che stupra la figlia, che stupra la propria moglie e che alla fine viene ucciso proprio dalla figlia e dalla moglie, che assoldano due sicari sordomuti che riescono a ucciderlo mentre dorme, ma subito dopo l'omicidio sia Lucrezia che Beatrice Cenci vengono arrestate e giustiziate, fatte giustiziare da Papa Clemente VIII di fronte a Castel Sant'Angelo. Dio mi ha sovrabbondantemente esaudito. E anche per questa puntata è tutto. Vi ricordo che potete riascoltarci su podcast e che potete scriverci a cartellone@radio24.it. Ringrazio Alessandro Chiappini in regia e vi do appuntamento a sabato prossimo.